Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera cari ascoltatori, e torniamo a parlare questa sera qui a Smart City di ricarica elettrica wireless. È una delle prospettive sulle quali si punta per quanto concerne in generale la mobilità elettrica. Stiamo parlando della possibilità di muoversi su una strada sotto la quale, sotto il pelo dell'asfalto, si nasconde un sistema che consente di trasferire, in assenza di un contatto fisico, energia elettrica da delle linee elettriche evidentemente a dei mezzi che possono essere automobili, potrebbero un giorno essere dei camion, ma potrebbero essere anche altre cose, come vedremo fra breve. Andiamo al Politecnico di Torino, nello specifico, per parlare di una startup, uno spin-off del Politecnico di Torino, che si chiama EnerMove, che sta appunto sviluppando uno di questi sistemi induttivi per la ricarica dei mezzi. Per parlarcene c'è Paolo Guglielmi, professore associato in ingegneria elettrica del Politecnico di Torino. Buonasera Guglielmi, bentornato. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, intanto ci descriva un po' come funzionano, ce lo ricordi, questi sistemi di ricarica wireless. Sì, il sistema di ricarica wireless è un sistema di trasferimento di energia senza contatto. Stiamo parlando di una distanza ragionevolmente dell'ordine di 10, 15, 20 centimetri, nella quale abbiamo un primario, un sistema, un'antenna di trasmissione, una bobina che crea un campo magnetico variabile, una seconda bobina ricevente che capta, diciamo, questo campo variabile e lo ritrasforma in energia elettrica per ricaricare o per alimentare un'apparecchiatura, ecco. Ricaricare una batteria o alimentare un'apparecchiatura. Teniamo presente che i trasformatori che abbiamo tutti in casa ormai a decine fanno esattamente questa roba qua, anche se hanno una geometria un po' diversa. Infatti, no? È un trasformatore in aria, se proprio uno gli vuole dare. Anche se non è propriamente quello, sono induttori accoppiati, per essere precisi. Certo. Quindi fisicamente che cos'è? Una sequenza di tante bobine messe una dopo l'altra? Sì, è una sequenza di bobine inserite nella pavimentazione o nell'asfalto, una in seguito all'altra e alimentate solo nel momento in cui il receiver o l'antenna ricevente, quindi il veicolo, passa, e in quel momento viene trasferita l'energia dal terreno, diciamo così, al veicolo. Perfetto. Allora, quali sono i settori per i quali in questo momento state sviluppando questa tecnologia? Perché il vostro spin-off nasce pensando al tema della mobilità leggera, quindi automobili e magari anche mobilità pesante. Però adesso vi siete orientati in una direzione più specifica e leggermente diversa. Sì, stiamo sempre parlando di veicoli elettrici, e il veicolo elettrico più diffuso al mondo è il muletto. Certo. Vale a dire in sistemi di logistica integrata e non integrata, dove i veicoli sono ormai tutti elettrici, dove il mondo italiano ed europeo è un leader assoluto in questo campo, e noi abbiamo trovato che ci sono un certo numero significativo di vantaggi nell'alimentazione dei muletti, soprattutto nei centri logistici, certo. Spinta, diciamo, quella da supermercato, per capirci, da rifornimento di supermercato, grandi magazzini e quant'altro. Ecco, perché quali sono questi vantaggi? E il vantaggio principale è l'evitare il fermo macchina, certo, volontario per il cambio batteria, perché nonostante tutto le batterie dei veicoli muletti, anche queste hanno una durata, una vita, con la differenza che pesano un pochino di più sì, e vanno smontate, sostituite o ricaricate. E con la pausa necessaria per sostituire la batteria o sostituire il muletto o tutta questa serie di eventi, diciamo quelli programmati e quelli facilmente immaginabili non programmati, certo, mi dimentico di metterlo in carica e avanti così, generano dei costi aggiuntivi che sono significativi. Tra l'altro mi viene in mente che noi qui in Italia saremo forti anche nella robotica, e anche i robot un domani, al di là che si occupino di logistica o qualunque altra cosa, potrebbero funzionare molto bene, no? Grazie a sistemi di questo genere, senza bisogno di avere di portarsi dietro grandi, grandi batterie. Senta, a che punto siete del vostro lavoro di sviluppo? Allora, noi abbiamo un anno di vita, come detto siamo partiti dal mondo automotive, ma ci siamo calati nel mondo industriale della logistica. Solo temporaneamente, tra l'altro, nel senso che non è che l'avete abbandonata quell'altra strada, però in questo momento c'è un'opportunità nel mondo della logistica. Certo. Però questa opportunità l'abbiamo vista particolarmente bene. E siamo ai testing della prima soluzione, sia statica che dinamica, e abbiamo avuto qualche ritardo, un po' come tutti, immagino, certo, per quanto riguarda questo periodo, e a settembre installiamo dal primo cliente. Quindi, per quanto cliente demo, è decisamente un'interessantissima condizione. Cercate partner di qualche tipo? Ma in questo momento sì, partnership industriali e clienti sono ovviamente le azioni che stiamo promuovendo in primissima persona, perché è comunque un mondo nel quale bisogna muoversi nel modo giusto, e attrezzare un muletto vuol dire poi parlare con chi distribuisce, produce i muletti e i sistemi. Va bene, allora grazie Paolo Guglielmi, e avanti così, come diciamo qui a Smart City. Grazie mille e buona serata a tutti qua. Va bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì, buon fine settimana.